Ciao ragazze! Ciao! Ciao! Dai, va bene, iniziamo! No, non è... Buonasera, buonasera, eccomi qua Addu, qui con voi, questa è Nervature, siete e siamo su Radio Wombat, la radio, come sapete, libera e autogestita di Firenze. Eccomi quindi qua, siamo ritornate insieme qui in voce e in ascolto per voi ascoltatrici. Allora, quindi ripeto, Radio Wombat, ci trovate dal sito radiowombat.net, vi invito a spulciarlo per trovare tutti i nostri podcast di tutte le trasmissioni attive e non, attenzione, anche non attive, e ci potete ascoltare dal sito, quindi con lo streaming, e dal sito però potete trovare anche tutti i nostri contatti. Ovvero, un po' ve li ricordo già qui, il pad direttawombat.vado.li, che è il foglio di testo condiviso che potete usare per chiacchierare con me esattamente qua in diretta. Quindi non esitate, mi raccomando, mi fate super piacere se mi scrivete, qualsiasi domanda, saluto o infamia, indifferente, mi fa comunque piacere e quindi affrettatevi numerose. Invece ci potete anche ascoltare non solo dallo streaming, ma dalle frequenze mediocri, cosiddette AM 1359, è la nostra frequenza. Se siete nei dintorni fiorentini, magari siete in macchina, vi state dirigendo a qualche aperitivo estivo, finalmente, viva l'estate, potete provare a collegarvi. Oggi quindi sono qui in regia tutta sola soletta, ma spero di farvi comunque ben compagnia e spero di riceverne anche indietro di compagnia, perché no? Ma direi di iniziare subito questa puntata odierna di lunedì 3 giugno, sono le 19.03 nel mio universo, con un primo pezzaccio fortissimo, ci risentiamo fra poco. Down inside. Oh, honey, you need a hug. I'm gonna give you my love. I'm gonna give you my love. I want a whole lot of love. And I say, I want a whole lot of love. Troy, ladies and gentlemen, I'd like to introduce you to the man with my water and towels on stage, Mr. Charlie Marsh. Stand up, Charlie. Okay, keep it cool, Charlie. Keep it cool, Charlie. Keep it cool, Charlie. Keep it cool, Charlie. Is this a place where that launch went off at Cape Canaveral? Yeah, man, I had lunch. I had bacon, lettuce, and tomato sandwich. That was a launch. What a fun we have. Ed eccoli qui i fiammanti Dread Zeppelin, grandissimo gruppo, mi piacciono veramente tanto. Ovviamente questa era Whole Lotta Love, forse non c'è nemmeno bisogno di dirlo. Chiaramente un gruppo già dal nome e da questa canzone si capisce bene, fa tutte cover dei Led Zeppelin, ma con uno stile un po' più personalizzato, un po' più particolare. E, semmai se vi piacciono andateli a spulciare, ve li consiglio. Magari dopo sentiamo un altro pezzaccio loro, dai, perché no? Insomma, vi starete chiedendo magari, ma cosa gli è preso a questa add-on, questa musica così sgargiante, cosa mai ci vorrà raccontare oggi? Ebbene, vabbè, vi ho messo questa musica perché sì, perché mi prende bene, come sapete posso fare quello che mi pare qui in regia, quindi evviva, ma anche perché in realtà oggi vi parlerò un pochino di argomenti volendo più focosi, ripeto, volendo, perché sì, perché per alcuni sì, per alcuni no, comunque argomenti un po' più di lotta, e mi piacerebbe poi in seguito sicuramente in future puntate, infatti magari ritornerò su questi temi, magari approfondendo anche più su diciamo esempi più territoriali, più vicini a noi, perché invece oggi vi parlerò di quelli che sono tutti i guerriglia garden e i community garden che vengono un po' di conseguenza, partendo però dagli Stati Uniti, quindi appunto come vi preannunciavo vi parlerò soprattutto di questa lontanissima landa non desolata di Manhattan, molto lontana da noi ma comunque molto molto importante chiaramente per noi europei occidentali, perché siamo nel bene e nel male, direi, collegatissimi a questa cultura statunitense. Ebbene, allora, per arrivare al punto di chi vi parlo oggi, vi inizio certamente, senza ombra di dubbio, questa puntata nel raccontarvi il personaggio di Liz Christie. Liz Christie è una donna che è stata molto molto importante nell'ambito del giardinaggio, nell'ambito dei, come vi dicevo, dei community garden, nell'ambito anche della progettazione urbana degli spazi verdi, e era una ragazza appunto statunitense che è stata quella che ha appunto ha fatto partire con una grandissima spinta veramente forte questa comunità e questi movimenti dei guerriglia garden. Praticamente lei appunto viveva a Manhattan, vabbè, è una ragazza che comunque noi potremmo dire che si è comunque impegnata da sempre, perché prima di diventare un po' più famosa comunque prima ha studiato un sacco, ha studiato alla Columbia University, alla New York University, New School, insomma un sacco di roba. Parallelamente però ha preso anche lezioni di disegno, di pittura, e questo comunque diciamo contribuisce molto nella sua figura, perché lei poi diventerà diciamo designer, progettista, quindi in tutto l'ambito, la sfera del disegnare, dell'immaginazione è qualcosa di ovviamente fondamentale per un progettista. Ha preso però anche lezioni di pianificazione urbanistica e anche di botanica, agronomia e paesaggistica. Quindi comunque, anche se non era di base esperta in materia di piante, però diciamo che comunque un certo interesse ce l'ha sempre avuto. E, lei appunto ha formato il gruppo del movimento dei Green Guerrillas, perché negli anni 70 in cui lei ha vissuto, Manhattan si ritrovava in una situazione abbastanza di crisi generale economica, anche quindi immobiliare, e c'era tantissimi lotti tratti di case, di edifici che non venivano più utilizzati, che erano lasciati quindi abbandonati, sfitti. Molti di questi lotti, tra l'altro, vennero anche demoliti perché non erano più utili, non ci stava nessuno. E tra questi e lotti che comunque ancora rimanevano privatizzati o comunque privatizzati o statalizzati, sono dei casi, ma comunque recintati ma non costruiti, si instaurò questo forte movimento delle, appunto, Green Guerrillas. Cosa fece in sostanza Liz Christie? Si prese la briga, all'inizio da sola, poi chiaramente piano piano sempre più gente la seguiva, di andare a lanciare semi e lanciare anche piante al di là delle reti. Tutte le reti che trovavano dietro un po' di terra ci lanciavano semi dentro. Questo ovviamente non è un'idea che gli è venuta in mente a loro, come sappiamo, come forse sapete, c'è già da molti decenni prima c'era già stato il movimento delle bombe di semi con Fukuoka, con insomma tanti esponenti in merito, però ecco, è sempre qualcosa di secondo me attuale questo gesto, almeno per ora è sempre stato molto attuale. Quindi ecco, andavano a giro per Manhattan in tutti i piccoli lotti, terreni, incolti che trovavano, si sporgevano alla mano e lanciavano semi. Questo era un po' il loro modo di iniziare, quindi, a farsi sentire. Accept the fact that pain is a part of the process of revelation. You have to be willing to take the field and stay on the field the way Duke stayed on the road. Ma non solo, Liz Christie fece tante altre cose. Allora, per esempio, è riuscita, questa ve la devo dire, non dovrei perché non so abbastanza in merito purtroppo. Praticamente aveva un programma radio che si chiamava Grow Your Own, quindi cresci il tuo, la tua propria roba, insomma, in cui trattava di urban foresting, community gardens, appunto, temi ambientali, urban design, progettazione, eccetera. E io però non sono riuscita a ritrovare veramente niente al riguardo, le fonti non so dove siano di questo fatto. Io però ve lo riporto perché chissà che magari fra voi ascoltatrici ci sia qualcuno che ne sappia di più, o che abbia dei metodi particolari che io non conosco per recuperare queste informazioni. Mi sarebbe tantissimo piaciuto ritrovare questa trasmissione per sentire un po' di che chiacchierava, sarebbe stato bello rimandarla, ma purtroppo non ci sono riuscita. Chissà se magari ci riuscirò più in là, continuerò nelle mie ricerche. E, quindi dicevamo, ecco appunto, Liz Christie ha fatto tante altre cose molto interessanti. La più famosa, diciamo, per cui è ricordata è la creazione del primo community garden, un modo anche forse un po' simbolico per ricordarlo, che creò nel 1973, e in realtà poi aprì al pubblico nel 74, perché era un lotto all'angolo fra Bowery e Houston, sempre a Manhattan, che però era invaso veramente da rifiuti, spazzatura, e quindi i cittadini del quartiere, ovviamente auto-organizzati, volontari, chiaramente si erano messi a ripulire il luogo, ma ci è voluto tempo, quindi sono riusciti ad aprirlo soltanto l'anno dopo. E questo piccolo giardino, dopo vi darò altre informazioni più dettagliate in merito anche tramite un'intervista, dopo lo vediamo, appunto, e iniziarono a riempirlo con una serie di piante che oggi, appunto, si parlava degli anni 70, quindi oggi sono già piante ben mature, addirittura è presente la sequoia più grande, più alta di Manhattan, che è un fatto così, diciamo, divertente. Ci sono altre magnolie, betulle, ci sono addirittura due laghetti con pesci, carpe, tartarughe, la gente poi ci portava le rane, anche se non avrebbe dovuto, ma ce le portavo uguali, insomma, tutta una storia di quartiere molto, molto carina. E quindi questo giardino ancora oggi esistente, che dal 1985 è proprio chiamato Liz Christie's Garden, perché lei in quell'anno purtroppo è morta a giovanissima età, appunto è un giardino ancora esistente, ancora frequentato, e ha avuto questa grande nomea, quindi, di essere, come dicevo, il primo community garden, quindi il primo luogo in cui tutti i cittadini potevano andare e liberamente sostare, liberamente piantare, liberamente coltivare e liberamente progettare anche. Questo è un fatto anche, secondo me, di grandissimo rilievo. Com'è, perché vi accennavo all'inizio che oggi parliamo anche un po' di lotta, perché chiaramente questo è un movimento nato in modo, come dicevo, dal basso, quindi auto-organizzato, e che chiaramente non era voluto dall'amministrazione, dal comune, tant'è che infatti cercarono più volte di sgomberarli, di farli andare via, e dopo comunque lo vediamo meglio appunto nell'intervista che vi citavo prima. Liz Christie in tutto ciò comunque è rimasta, cioè è stata sempre attiva non solo nel suo, diciamo, giardino, ma ha creato tutto questo momento in cui lei si impegnava tanto a sostenere tutti gli altri community garden che volevano nascere, che stavano nascendo. lei in realtà aveva proprio una vocazione particolare nella progettazione degli spazi verdi, nel senso che proprio le piaceva, era una sua passione. E questo infatti lo declinava nel, come dicevo, nell'aiutare la nascita di altri community garden non, diciamo, non strettamente suoi, ecco, però li sosteneva. Addirittura è arrivata, ne ha sostenuti in modo molto partecipe una ventina, ma addirittura è arrivata a un numero molto più incredibile, a quasi 700 nei vari anni. Perché? Perché in realtà dal 1975 fino all'anno poi della sua morte, 10 anni dopo, era stata nominata primo direttore del Council on the Environment di New York, chiamato anche Open Space Greening Program. Questo era appunto un consiglio apposito per spazi verdi aperti, e lei era direttrice, perciò aveva molta voce in merito. E anche se purtroppo poi appunto è morta giovane per un tumore, però per gli anni in cui ha avuto voce attiva in capitolo, si dice insomma che la città abbia veramente cambiato totalmente il suo aspetto. Mi piace però anche ricordare altre cose un po' più curiose che ha fatto, sempre però in quest'ambito, ovvero ha fatto istituire un corso pubblico di 12 ore, un corso di potatura e manutenzione delle alberature, che era un corso proprio rivolto ai cittadini, quindi affinché i cittadini stessi, quindi il popolo, anche le classi povere, potessero essere in grado di appunto conoscere meglio le piante, in questo caso gli alberi che gli stavano intorno, quindi molto molto interessante. E altra cosa invece curiosa è che aveva avviato una procedura per rivolta a vivai e garden center affinché potessero donare piante a questi community garden appunto che stavano nascendo. Quindi, come si sa, in realtà i vivai e i garden sono comunque bene o male anche dei negozi, quindi ci sono tanti scarti, le piante ogni tanto possono morire o possono non essere belle, o comunque ci sono degli eccessi di produzione. Insomma, lei aveva cercato di creare un modo per economizzare in modo, diciamo, più sostenibile anche questo tipo di commercio. E ovviamente poi dal movimento, diciamo, capeggiato da Liz Christie, poi ne partirono tanti altri in tante altre città degli Stati Uniti: Boston, Philadelphia, San Francisco, Seattle e poi non solo, come sappiamo, spero che sappiate, forse non lo sapete, questo tipo di movimento è arrivato anche da noi in Europa e ormai comunque anche in Italia, dove si dice siamo più retrogradi e tutto, in realtà ce n'è di esempi in merito, e dopo ne sentiremo anche uno un po' più nello specifico. Questo era Tickle It, Mohsin Worker o qualcosa del genere. E, quindi vi stavo un po' raccontando chi era Liz Christie, che cosa ha fatto, per cosa è diventata conosciuta e soprattutto che cosa ha fatto innescare in USA, ma in tutto il mondo successivamente. E come vi preannunciavo, vi vorrei leggere un'intervista di Donald Loggins, che è un altro, era un suo amico, un altro dei fondatori del Liz Christie Community Garden, ma direi che prima potremo ascoltarci un altro pezzettone e poi vi leggo quindi questa piacevole intervista. A tra poco. Thank you. Echo and bounce. Circa 40 anni fa, Liz Christie e il suo gruppo di giardinieri ribelli, i Green Guerrillas, decisero di trasformare un terreno abbandonato in qualcosa che somigliasse al Dutch Bowery, il terreno agricolo che ricopriva Manhattan in epoca coloniale. Nel 1974, il primo orto comunitario di New York fu aperto all'angolo tra Bowery e Houston. La signora Christie aprì la strada a dozzine di giardini simili in tutto il quartiere, prima di morire di cancro ai polmoni nel 1985, all'età di 35 anni. In onore della Giornata della Terra, Donald Loggins, fondatore del Liz Christie Community Garden, ripercorre la sua storia mentre si prepara per l'orario estivo del mese prossimo. Questo è quindi l'incipit di questo articoletto che vi sto per leggere. L'ho trovato da The Local East Village, penso sia una rivista online. È un po' datato, è del 2013, però tanto ci sta raccontando di fatti ancora più datati degli anni 70, quindi a noi ci va bene così e non ci dà problemi. Quindi quello che sentite da qui in avanti sono parole proprio di questo Donald Loggins, appunto amico di Liz Christie e collega anche in questa grande avventura. Liz aveva il paesaggio nel sangue. Sua madre era Patricia Lowe, imparentata con Frederick Lowe Olmsted, che è l'architetto paesaggista che progettò Central Park e Prospect Park. Interrompo, scusate, uno dei paesaggisti più famosi della storia, è proprio una figura illuminata che alla fine dell'Ottocento, appunto, progettò Central Park, ma con veramente una lungimiranza notevole. E poi vabbè, il progetto in realtà aveva tutta una serie di altre contraddizioni sociali, perché vennero sgomberate comunità tra le pochissime comunità di nativi americani restanti, quindi chiaramente questo fu un gravissimo danno umano. Però a parte questo, il progetto in realtà era veramente, veramente lungimirante, come dicevo. Quindi continuo. Liz si alzava alle 6 del mattino e usciva fino alle 21, girando per l'East Village nella sua piccola Datsun arancione, piena di pale e terra. Ha subito fondato la Green Guerrillas per mobilitare i vicini affinché si occupassero di questi progetti di orti comunitari. Ha lasciato una bella eredità alla città. Continuo. Liz viveva tra Mott e Bleecker, quindi ogni giorno passava davanti a questo lotto tra Bowery e Houston. Una volta c'era un ragazzino che giocava tra tutte le macerie e la spazzatura. Si stava arrampicando su un frigorifero capovolto. Fu allora che decise che qualcosa doveva cambiare. Aveva l'idea che potesse essere un giardino, come il terreno agricolo che era prima che lo denaturassimo per costruire. Donald racconta che all'inizio eravamo solo una dozzina circa, amici e vicini di casa, ad avviare il giardino. Adesso sono l'unico rimasto, tutti gli altri sono morti o si sono trasferiti in Florida. Storia tristissima, oh mio Dio. No, in realtà sì, poi sono seguiti e seguite altre volontarie e quindi il giardino oggi è ancora aperto, tra l'altro dal 2002 è un giardino protetto dal comune in quanto appunto community garden di valore storico, eccetera, eccetera. Ci è voluto un anno intero solo per ripulire il terreno. Abbiamo iniziato nel 1973, ma abbiamo aperto solo nel 1974. A quel tempo la Bowery era infestata da spacciatori e dovevamo cacciarli fuori di qui con forconi e pale, come una folla di vecchi tempi. Una volta che abbiamo piantato e le cose finalmente sembravano belle, le autorità hanno voluto chiuderci. Hanno marciato qui dicendo: è proprietà della città, smammate. Vorrei che Liz fosse stata qui negli anni 90, quando Giuliani venne in giardino per chiuderci. Ha definito il giardino comunista. Penso che lei lo avrebbe colpito con qualcosa. Tuttavia, oltre 2000 persone hanno firmato la petizione per tenerci aperti. Quella fu l'ultima volta che la città cercò di impossessarsi del terreno. Liz era un'artista, designer grafica e pittrice ad olio. Non sapeva niente del giardinaggio. Nessuno di noi ne sapeva. Abbiamo semplicemente sperimentato le cose per vedere quale funzionava. Ciò che Liz amava davvero era progettare giardini. Ecco perché ha continuato ad aiutare altre persone ad avviare giardini dopo il nostro primo. Ha avuto l'idea di tracciare i sentieri del giardino in modo che si curvassero e si snodassero nello spazio. Ciò contrastava con lo schema a griglia del resto della città, cambiando il ritmo e aiutando la mente a rilassarsi. La metropolitana passa proprio sotto di noi. Circa 30 anni fa stavamo scavando per piantare un albero lungo il bordo della recinzione lungo Huston e ci siamo imbattuti in dei ciottoli. Quando abbiamo sollevato uno dei mattoni abbiamo potuto vedere la luce brillare e all'improvviso ci siamo ritrovati a guardare le persone sulla piattaforma della linea F. Questo ci ha salvato dal continuare a scavare. Sulla nostra proprietà non è possibile costruire nulla che richieda una fondazione a causa della linea della metropolitana sottostante. Osservare la transizione di Bowery nel corso di 40 anni è stato sorprendente. Negli ultimi 10 anni i prezzi di tutto sono aumentati vertiginosamente, ma anche la sicurezza è aumentata in modo esponenziale. Ora condividiamo un incrocio con Whole Foods, il che è stato fantastico. Molte persone comprano il pranzo da Whole Foods e vengono a mangiarlo qui. Il negozio ci ha contattato un paio di volte. Uno dei loro corsi di cucina ha occupato un appezzamento del giardino per coltivare le verdure per i loro piatti. Il negozio di alimentari si è persino offerto di darci il loro compost. In questo momento abbiamo uno stagno pieno di carpe e alcune tartarughe. Abbiamo anche un picchio che va in città dal nostro pino. Chiediamo alla gente di non farlo, ma nel corso degli anni qui sono stati rilasciati molti animali. Rane, pesci, furetti. Una volta arrivò un gallo. Lo abbiamo lasciato per un po', ma poi ha iniziato a spaventare i giardinieri. Inseguiva le persone lungo i sentieri. Quindi abbiamo dovuto darlo via. quindi questa era appunto l'intervista che vi dicevo fatta a Donald Loggins, e conclude in realtà con altre poche righe dicendo che stavano organizzando la festa annuale del giardino, che è un hat party, quindi una festa in cappello, si direbbe, e quindi appunto invita a venire con il tuo proprio cappello a tema giardino, e c'è tra l'altro una foto molto carina con diversi cappelli anche parecchio stravaganti alcuni, e quindi niente, invita a partecipare dando gli orari e tutto. Quindi questa era Donald Loggins, come dicevo, amico di Liz Christie e fondatore, quindi insieme a lei e anche altri, del Liz Christie's Garden, il primo community garden di Manhattan. Questa era un po', diciamo, la storia per quanto riguarda questo importantissimo giardino, che ormai, come vi dicevo, adesso anche sotto tutela è protetto, e ne parlano in continuazione riviste di giardinaggio e di architettura del paesaggio, perché appunto, come si vedeva prima, Liz Christie, oltre a innescare questo potente movimento di community garden, che quindi voleva riappropriarsi degli spazi abbandonati delle città come forma di lotta, di appropriazione della città stessa, quindi di anche solidarietà e vicinanza con il quartiere, con la popolazione, e compagni, amici, chi più ne ha più ne metta, insomma, di tutto il quartiere e oltre. E appunto non ha fatto solo questo, ma Liz Christie è anche stata poi effettivamente progettista di altri spazi verdi in sempre zone degradate e povere della città, e quindi questa era un po' la sua storia. Come dicevo, appunto, questo movimento, lei è stato un po' l'inizio, ma è un movimento che sta continuando a perpetuarsi. Nominavo prima le bombe di semi, per esempio, di cui è molto famoso Fukuoka, ma non solo, e tanti altri modi per usare le piante, gli spazi abbandonati, i terreni incolti come forma di lotta, come forma di riappropriazione, come forma di come modo per far sentire la propria presenza, le proprie volontà e le proprie volontà all'interno di un territorio anche molto complesso, complicato come quello di una città. Continuiamo allora con un po' di musica e poi vi farò una seconda lettura invece da un altro libro, che direi una lettura che si sposa molto molto bene con questi temi appena trattati. You know, ladies and gentlemen, it's time for us to present something to you that we feel strongly about. Survive in a world of destruction. Tough when you're young. Breathe in the system for justice. Open your eyes. It's pure devastation. It is this. Survive. know, ladies and gentlemen, it's time for us to present something to you that we feel strongly about. Sure. E questi erano gli EZ Rollers. La prima canzone che avete sentito era Though at the Top e quest'ultima invece Breakbeat Generation. Oggi grandi, grandi pezzacci, direi, grandi, grandi musicozze. Allora, quindi vi propongo questo penultimo contenuto per la puntata odierna, lunedì 3 giugno, ma prima di farlo vi ricordo di nuovo, ma per l'ultima volta, quindi ascoltate bene, il contatto per comunicare con me, quindi diretta wombat.vado.li. Potete usare questo link per accedere al pad con condiviso, ovvero il foglio di testo condiviso che potete usare per chiacchierare con me e commenti, domande, tutto quello che avete. Dunque, allora vi leggo questo un passaggio dal libro Lezioni di giardinaggio planetario, scritto da Lorenza Zambon. È un libro molto curioso, molto molto molto semplice, informale, sembra di leggere una conversazione WhatsApp praticamente, cioè è proprio scritto in modo veramente colloquiale, ma per questo motivo molto diretto, molto efficace. E quindi appunto vi leggo un passaggio dal, mi sembra sia il primo capitolo. Ma Joyce non aveva ancora finito con i suoi suggerimenti di giardinaggio anonimo rivoluzionario. Ha raccontato una cosa ancora più fantastica, che non mi esce più dalla testa. Dice che loro fanno delle azioni con i fiori. Cioè dice che si procurano centinaia di bulbi, e quando diceva che se li procuravano faceva una faccia strana, mi sa che voleva dire che li rubavano. Poi nottetempo, e bene organizzati, vanno a fare delle scritte. Sì, nei giardini comunali, sulle scarpate degli svincoli delle strade, fanno delle scritte con i bulbi. Pace. Done with. Abbasso questo e quello. Con i bulbi. Ricordate come funziona con i bulbi, no? Tappo di terra, dentro il bulbo nel buco, si ritappa e non si vede niente. Ritorna tutto come prima. Se c'è dell'erbetta meglio, si vede ancora meno. Si piantano in autunno e per tutto l'inverno non succede niente. Poi, improvvisamente a marzo, prima che cresca l'erba, tutti i narcisi vengono su di colpo. Foglie dritte scure e fiori gialli a trombetta. Improvvisamente appare la scritta «Pace». Fatta di fiori. È meravigliosa. Secondo me è un'idea davvero geniale. Oltretutto è un'idea tenera e gentile, no? Mica violenta. Anche legalmente, voglio dire, cosa possono farti? Occupazione abusiva del suolo, danneggiamenti? Su via, che sarà mai? In fondo sono solo fiori. Da quando ho sentito questa storia, non mi è più uscita dalla testa. Ho cominciato a guardarmi in giro, a immaginare quel basamento del cavalcavia, bello, circolare, quella rotonda stradale enorme per la nuova circonvallazione megagalattica intorno a un paesino di 4 case. Inutile. Uno di quei capannoni che stanno proprio sulla cima di una collina. Orribile. E anche certi giardini comunali che si possono sempre migliorare. Questo quindi era il brano dal libro Lezioni di giardinaggio planetario scritto da Lorenza Zambon. Ve l'ho voluto riportare perché, come vi dicevo prima, mi resta simpatica questo tipo di scrittura. E quindi appunto qui questo è riportato un altro esempio di guerrilla gardening, quindi l'utilizzo di piante per passare dei messaggi, per farsi sentire, e qui lo fanno con dei bulbi. Ora, questo appunto è un passaggio, ma nelle pagine precedenti spiega meglio che cosa sono, un pochino meglio che cosa sono i bulbi, e quindi ve lo rispiego anch'io così che si capisce al 100% questo tipo di azioni. Il bulbo è la parte radicale di alcuni tipi di piante erbacee perenni, e come per esempio l'aglio è un bulbo, la cipolla è un bulbo, tra l'altro, ma anche, come diceva, i narcisi, i gigli, le dalie e così via. E quindi è una parte radicale che si ingrossa, che raccoglie un sacco di energie durante tutta la stagione, e quindi in inverno le foglie vanno via, le perde, tutte le energie ritornano nel bulbo, il quale aspetta, ma si carica nel frattempo, per poi esplodere alla di solito primavera o a seconda, ovviamente, delle specie cambia il periodo, ma insomma, diciamo tra inverno, primavera, fine primavera, tendenzialmente esplodono appunto i fiori. Qui faceva l'esempio dei narcisi, ma appunto non solo. In questo periodo, per esempio, sono fioriti i gigli. Quindi la prima cosa, quasi la prima cosa che viene fuori dai bulbi molto spesso è proprio il fiore. Quindi vengono spessissimo usati questi tipi di piante nei giardini francesi, in tutti i parterre, queste aiole super mega fiorite in cui ogni anno levano i bulbi e li rimettono affinché l'anno dopo siano ancora più potenti. Insomma, delle cose veramente, veramente artificiose. Ma questo che fa capire la, diciamo, specialità di queste piante, questo fatto che come prima cosa appare questo colore potentissimo. I tulipani, ovviamente, i tulipani anche sono un altro esempio di bulbo. Quindi questa idea, secondo me, è veramente, veramente non solo tenera, come dice nel libro, ma anche bella potente, secondo me, perché fai un'azione in autunno, devi aspettare e poi a un certo punto verrà fuori la scritta. C'è anche una certa poetica, secondo me, perché il tema dell'attesa è qualcosa di assolutamente sempre meno antropico, ma che è sempre stato invece molto naturale. Quindi è un'azione politica, a seconda di quello che uno scrive, può essere molto poco politica a seconda dei casi, che è un'azione molto particolare perché necessita dei tempi naturali della vita, insomma. Quindi, secondo me, anche questo è ulteriormente un messaggio, magari un po' nascosto, forse, che però è bello e intenso, secondo me. E poi, appunto, il fatto che si possono scrivere, si possono fare le scritte, lettere, numeri, così, è veramente, veramente potente. Allora, prima di arrivare all'ultimissimo contenuto di quest'oggi, vi mando un ultimo pezzo, ma intanto però ve lo anticipo. Quindi parlavamo di tutti i guerriglia garden, community garden, chi più ne ha più ne metta, e ci chiediamo, ma a Firenze esistono? Ne esiste diversi, e io oggi, per, diciamo, introdurre questo grande argomentone della nostra territorialità più vicina, vi parlo del community garden di Orti Dipinti, e ho addirittura in esclusiva una piccola intervista, diciamo, del creatore di Orti Dipinti, ma ve la manderei, come dicevo, a seguito di ancora un po' di musica, e così la useremo come argomento conclusivo. A tra poco. Quindi stavamo dicendo che concludiamo questa puntata di lunedì 3 giugno con focalizzarci o diciamo iniziare un focus riguardo ai Community Garden a Firenze e dintorni e poi magari chissà anche in Italia. Ebbene sì, quindi uno esiste ed è Orti Dipinti, che tenuto e creato da Giacomo Salizzoni, e adesso lo sentirete proprio in voce perché gli ho diciamo fatto una sorta di intervista, gli ho diciamo chiesto un contributo affinché ci spiegasse proprio che cos'è Orti Dipinti, com'è nato e appunto cosa succede al suo interno. Quindi eccolo qua, sentiamolo. Orti Dipinti intanto ha questo nome perché è Steinborgo Pinti, che ha questo nome perché un tempo molti pintori dipingevano appunto i loro dipinti, quelli che erano i giardini, quindi siamo in una zona che un tempo era proprio popolata di alberi e piante. E lo definisco un community garden 2.0 perché prende spunto appunto dai community garden del passato, ma cerca di essere strutturato in maniera un pochino più organizzata, soprattutto per offrire formazione ed educazione, ma anche per eventi culturali o di promozione sociale che ospitiamo il mercoledì di giugno, luglio e settembre di solito, con musica dal vivo di vario genere. E una terza cosa che facciamo è usare lo spazio come un laboratorio a cielo aperto, un po' ispirato al modello rinascimentale dove si contaminavano diverse arti, e noi lo facciamo seguendo i valori insomma della sostenibilità e dell'ambiente, ma appunto intendiamo usare quello spazio proprio per fare della ricerca e sperimentazione su elementi di design, su tecniche di coltivazione, su metodi rigenerativi, strumenti che possono essere anche copiati semplicemente o rivisitati da internet. Queste sono diciamo le tre funzioni, quindi educazione, e promozione sociale e ricerca e sperimentazione. Ecco, questo era un po' il Community Garden di Orti Dipinti. Vi invito a andarlo a curiosare, andarlo a scoprire, perché è un posto veramente piacevole. E poi, appunto, adesso sentirete un'altra... un altro audio sempre di Giacomo Salizzoni, al quale ho chiesto un po' una sua visione, proprio perché lui ha creato questo giardino a Firenze, pubblico e condiviso, e ho chiesto quindi un po' a lui la sua visione di quelli che erano i principi del guerrilla gardening e un po', diciamo, come è arrivato questo movimento all'interno della sua vita. Cerco di rispondere il più sinteticamente possibile alle domande che in qualche modo mi riguardano abbastanza dal profondo, e comincerei proprio con la prima domanda: qual è la mia esperienza personale con i movimenti di guerriglia gardening e che cosa rappresentano per me politicamente? Bisogna ricordare che nel 2003 io mi sono laureato. Ho fatto il fotografo e l'animatore di stop motion, e questo lavoro di animazione richiede molto tempo in uno spazio scuro senza interferenze di luce, a muovere spesso cose per pochi millimetri per poi poterle animare. E un giorno, appunto, ero al buio da solo in questa stanza, e ho pensato che fosse invece meglio mettere la testa fuori e lavorare con le persone, con le piante. Quindi mi sono avvicinato a questo movimento del guerrilla gardening, nato appunto a New York negli anni 70, e che tradotto vorrebbe appunto dire giardinaggio d'assalto, che mi piaceva perché è un movimento proattivo, appunto, di persone che indipendentemente si organizzano e prendono cura di spazi abbandonati della città, a volte semplicemente coltivando delle verdure. Però è anche un movimento così anche limitato, perché questi spazi poi col tempo venivano nuovamente abbandonati, per cui la mia storia personale parte proprio da lì e cerca nel community garden, per usare questi termini bellici, proprio un presidio dove poter continuare questa lotta, questa battaglia, chiamiamola così. E quindi mi sono ispirato un po' al modello, diciamo, anglosassone, sempre del community garden, e da lì ho proseguito, diciamo, questo percorso, cercando però di educare le persone. Quindi passo subito alla ultima domanda: che relazione c'è? Beh, diciamo che è un tutt'uno, perché è un proseguo. Per me è proprio un'evoluzione quasi naturale, ma un pochino più strutturata. Ritornando indietro e parlando invece delle altre esperienze di guerrilla gardening, ovviamente mi viene in mente Masanobe Fukuoka, che ha evoluto il concetto di bombe di semi e di guerrilla gardening, perché ricordiamo che le prime bombe di semi degli anni 70 mi sembrava fossero addirittura dei palloncini, gavettoni riempiti di acqua e di semi, che poi venivano lanciati in questa riserva idrica che si veniva a rompere, doveva essere sufficiente per fare germogliare i semi. Oggi ovviamente risulta naif, perché è ovvio che nel momento in cui viene lanciata questa bomba rilascia anche della plastica, che di solito non è gradita alle piante. L'idea di Fukuoka è stata quella di mischiare, appunto, diversi componenti, tra cui humus, argilla, semi e acqua, e creare queste palline che poi lui ha perfezionato in dischi, che si decomponevano più facilmente una volta atterrati, e combinare più specie che sono sinergiche fra di loro e quindi collaborano per creare già un micro sistema nel momento in cui viene lanciata queste bombe di semi, che però hanno un'origine antica, addirittura legata agli indiani d'America, che usavano coprire semplicemente dei semi con dell'argilla, lanciarli, e poi quando pioveva queste si aprivano e facevano crescere gli alberi o le piante, ed impediva quindi agli uccelli di potersene cibare perché ricoperte di argilla. E scusate, passo all'infrasca, però l'aspetto politico io ho sempre cercato di lasciarlo in maniera marginale, perché non volevo appunto politicizzare troppo questa lotta, che doveva essere bipartisan, per usare un termine politico. e al di là delle apparizioni dei politici, dei vari politici in questi 11 anni, noi siamo rimasti sempre molto indipendenti e secondo me questo movimento deve rimanere tale. E la figura di Liz Christie, quindi l'ho conosciuta, per me è un'eroina insieme ad altri, tra cui appunto Fukuoka, ed è ovviamente stata un'ispirazione. Diciamo che l'ispirazione principale è quella di essere proattivi e di prendersi cura in maniera indipendente e responsabile di qualcosa che dovrebbe essere considerato un bene comune. E secondo me la rivoluzione sta proprio in questo, nel considerare lo spazio pubblico, ogni interstizio urbano come un potenziale luogo gestito in maniera anche fuori legge, perché i primi interventi erano notturni, oggi forse non sarebbero più perseguitati quelli che si prendono cura di spazi in questo modo, però al tempo ricordo che erano mal visti. E altre figure per me importanti di ispirazione in questo ambito sono relativamente poche, perché per me la vera battaglia è non tanto lanciando le bombe o prendendosi cura in maniera temporanea, ma avendo una visione più a lungo termine, per cui mi vengono in mente personaggi come Ernst Gotch, il nostro Stefano Mancuso, Carl Hodges, che è un altro grande biologo che ha inventato il sea farming, cioè la fattoria di mare, che potrebbe essere una soluzione molto interessante per il futuro, dal momento che manca sempre più l'acqua a disposizione per irrigare, ma anche Dan Barber, che è un cuoco famoso per la sua lotta nell'approvvigionamento di cibo che sia buono che prodotto in maniera rispettosa per l'ambiente e soprattutto in maniera concertata con la natura. E la buona notizia è che se uno segue queste regole, poi il cibo è quasi per conseguenza delizioso, mentre noi ormai siamo assuefatti a un cibo mediocre prodotto da un sistema industriale che deve essere un po' contrastato. E quindi il guerriglia gardening oggi dovrebbe essere anche il food, o il guerriglia food system, che sono due cose molto spesso correlate. La ragione per cui io sono venuto a conoscenza del movimento è proprio perché, come dicevo prima, volevo uscire dal buio e cercare la luce e la compagnia delle piante e delle persone. Quindi il guerriglia gardening è stato quasi un arrivo obbligato, vista questa esigenza. E quindi, insomma, come dicevo prima, la pratica di oggi è in maniera un poco più strutturata e basata soprattutto sulla formazione e sull'educazione di studenti di varia natura, di varia età, turisti, insegnanti, che ha anche la possibilità di espandersi anche in altri paesi. Siamo stati in Senegal di recente proprio per insegnare a delle persone anche là a sfruttare le tante risorse che in realtà hanno, ma che spesso sono nascoste. Pertanto, insomma, credo che i community garden possano unirsi tranquillamente con il guerriglia gardening. È soltanto un'applicazione, se vogliamo, del guerriglia gardening, appunto, nel nostro caso dedicata all'aspetto educativo e formativo. Però immagino che possano e debbano esserci tante forme di applicazioni, perché, insomma, la lotta o la battaglia o la guerra o la guerriglia deve essere un valore, insomma, di tutti. E con questo concludo, ringraziando per l'attenzione e augurando, insomma, una buona battaglia a tutti. Quindi ringraziamo anche te, grazie Giacomo per questo contributo. Quindi, appunto, avete sentito Giacomo Salizzoni, creatore e curatore, se si può dire così, di Orti Dipinti, che è un community garden appunto di Firenze. Vi invito a spulciarlo, come vi dicevo. E quindi, per quanto riguarda me, invece, la puntata odierna si conclude qua, e nel mio universo sono le 20:30 spaccate, non sono mai stata così puntuale, anche se in realtà adesso vi mando un ultimo pezzo, quindi la puntualità la sforiamo comunque. E, quindi niente, sono contenta, molto contenta di essere giunta a questo punto, perché sono quindi riuscita finalmente a parlarvi di questi argomenti che ovviamente mi sono a cuore, ma che mi frullano già da tempo, ma ancora non vi l'avevo mai proposti. Bene, bene, comunque penso che ne risentirete, ne risentiremo parlare insieme, spero appunto con un focus ancora più territoriale, come vi dicevo. E, per oggi però è tutto, e quindi ci ritroviamo lunedì prossimo alle 19, sempre qui su radiowombat.net o altrimenti sulle 13.59 delle frequenze AM. E rimanete sintonizzate e sintonizzato, mi raccomando, sulla radio per sentire tutto il resto del palinsesto odierno, e come vi dicevo ci risentiamo settimana prossima alle 19 con Nervature. Vi mando un ultimo pezzo, questi sono di nuovo i Dread Zeppelin con Heartbreaker. Buonissima serata! A new place to dwell. It's down at the end of Lonely Street. That's a Heartbreak Hotel. I've been so lonely, baby. I've been so lonely. I've been so lonely, baby. I could die. The bellboy's always crying. Ladies dressed in black. They've been so long all along the street, they'll never, never, never come back. I've been so lonely, baby. I've been so lonely. I've been so lonely, baby. I could die. People talking all about the way you left. I know where that jive is at. But one thing I do have on my mind, and it terrifies me too, the way you call me another guy's name when I try to make love to you. And you so. Yeah. baby leaves you. Got a tale to tell. Just take a walk down lonely street to a heartbreak hotel. I bet we're so lonely, babe. I bet we're so lonely. I bet we're so lonely, babe. I could die.